like fire. I'm so in love with you, hurts the soul. A Pistoia i circhi con animali tornano a casa. Ne parliamo con Lorenzo Lombardi, presidente della Federazione Verdi Toscana. Lorenzo, allora il comune di Pistoia in due diverse occasioni si è dichiarato contrario a spettacoli di circhi con animali. Che cosa dice in particolare il vostro regolamento a riguardo? Il regolamento prevede il divieto di utilizzo di animali selvatici, esotici e cuccioli per intrattenimento, spettacoli, quindi tutto quello che riguarda l'attività circense. Ovvero a Pistoia vengono i circhi, se vogliono venire fanno attività con, diciamo, attività umane. Quindi giocolieri, trapezisti, ballerini, comici, clown e così via. E il 23 dicembre cosa è successo in particolare? Allora, come sempre, diciamo, la tradizione circense è abbastanza una tradizione da una parte estremamente nobile, pensa al Circo du Soleil, un circo che rifiuta i finanziamenti pubblici, perché ricordiamoci che in questo momento di crisi, per una legge antica, i circhi sul territorio italiano hanno dei finanziamenti pubblici. In questo caso c'erano anche delle normative proprio su quel che riguardava la sicurezza, quindi c'è stato un doppio no del Comune di Pistoia e ci sarà una terza riunione della Commissione Pubblico Spettacolo domani, il quale praticamente, se il circo sarà a norma in termini di sicurezza, chiaramente dovrà garantire che fa spettacoli senza animali, altrimenti rimane chiuso e torna a casa. Quindi al momento i tendoni ci sono? Sono stanziati o ancora no? I tendoni sono stanziati, ma non hanno, sono stanziati dal 21, ma non hanno esibito, non hanno mai fatto spettacoli. C'è stata una forzatura da parte dei circensi, la mattina sono andati al mercato a distribuire, che avrebbero fatto lo spettacolo. Poi allora io ho avvertito polizia, carabinieri, polizia municipale, è stato, diciamo, avvertita la popolazione, i pochi, veramente pochi, fortunatamente la gente inizia ad aprirsi, le coscienze si iniziano ad aprire, quindi sono sempre meno le persone che vanno a vedere circhi con animali, sono stati mandati via e non gli è stato permesso di aprire, perché era previsto spettacoli con animali, oltre a insufficienti garantie in termini di sicurezza del tendone e così via. Ma e quindi oltre alle tende ci sono anche i posti per gli animali, ci sono i camper con gli animali? Oltre alle tende chiaramente sono attendati gli animali, perché chiaramente erano al seguito del circo. Infatti il nostro prossimo provvedimento, l'abbiamo già parlato con il sindaco, è il divieto totale di attendamento proprio di circhi con animali, e nemmeno le varie mostre faunistiche e cose di questo genere. Quindi gli animali non possono esserci nei circhi che vogliono attendarsi a Pistoia, quindi gli animali non ci sono, nel senso non sono sfruttati. Quindi al momento la situazione è un po' paradossale, è che le roulotte, i tendoni sono montati ma loro non possono esibirsi. Paradossale, sa, alla fine loro sono lì stanziali, perché sono stanziali in un'area privata, non è che sono stanziati in un'area del comune. Hanno preso, diciamo, la scritta un'area privata, quindi di conseguenza un privato è libero di fare queste cose. Il comune non ha dato un'area al circo. Ultimamente, insomma, prima dell'estate, c'è stato il caso di Ferrara in cui il TAR ha bocciato l'ordinanza anticirco. Non avete paura anche voi che i circensi facendo pressione? Allora, premetto che a volte le battaglie si vincono anche facendo, appunto, via via aprendo le coscienze e aprendo la giurisprudenza, quindi sì, sinceramente a volte è anche giusto farsi bocciare delle normative se queste, come dire, portano avanti dei diritti che magari tra un giorno, un mese o un anno verranno riconosciuti. Tuttavia io credo che con l'equipe di avvocati con cui lavoro e che hanno permesso a Pistoia la condanna più grave sulla denuncia che abbiamo fatto e che ho fatto io personalmente dell'uccisione di un barboncino da parte di un militare che l'ha fatto per divertimento, c'è stata la condanna più pesante d'Italia. A Pistoia c'è stato il sequestro di tutti gli animali del circo Victor, quindi, diciamo, abbiamo un'equipe ormai rodata di giuristi, di avvocati e chiaramente di un'azione politica forte, diciamo, mia e di tutti gli amici animalisti. Siamo sicuri che comunque il nostro regolamento non verrà assolutamente impugnato. Ho letto che non avete a cuore soltanto gli animali dei circhi, ma anche tutti gli animali. Infatti avete vietato l'utilizzo dei botti per Capodanno, anche questa è una scelta molto, molto positiva, in un periodo in cui tutti vorrebbero... È una scelta di dignità. Io credo che oggi queste non siano più battaglie animaliste, siano battaglie di buonsenso. Il rispetto della vita è buonsenso, ancora prima che animaliste. Allora aspettiamo il prossimo circo senza animali, speriamo che il prossimo anno arrivi. Oppure faremo a meno anche di circhi. Va bene Lorenzo, allora restiamo animali? Restiamo animali. Il rifugio per animali Ipposi si trasferisce e lancia un appello. 2 giornate di volontariato. Il 30 dicembre a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, nel nuovo terreno, per fermare tutte le recinzioni, e il 6 gennaio per smantellare il vecchio recinto a Marina di Pisa. È consigliato abbigliamento da pioggia e per chi le ha venite armate di tronchesine. Per informazioni e adesioni mandare una mail all'indirizzo info@ipposi.org.